Allora, la partitura è questa. È diversa. Facilissima, allora. Se c'è il mare, una montagna, un campo, un prato. Ok. Se no faccio una cavaluccio mai. Poi il polipo. Le alghe. Esiste ancora poi il polipo. Questa è la partitura numero 5. No, lettera C. Lettera C. Beh, non so, sì, sono più che altro elementi geometrici. Sono tante separazioni. Sì, la vedi come se con un secondo momento altro. Non lo so, però lo so un po'. In zone. Ah, sì, sì. Questo mi interrompo. Più unite. Sì, sì, sì, una cosa che va a da molto denso, da denso a sì, sì, a più rare fatto, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Delle dinamiche molto più date dal segno, molto più questo sì. I segni gialli sono tutti molto molto netti, molto forse potrebbe tipo cercarci un percorso diverso da quello sì. Oppure anche arrivare da qua sì. Qua all'interno notte può succedere che le no, non è tosto, è che però è interessante perché all'inizio del genere che poi porta una chiusura netta, esatto. Però allo stesso tempo offre una serie di possibilità su come affrontare sul dopo, esatto, sul momento dopo affrontare a te, cioè come la scelta diciamo delle parti. Tipo che ognuno si piglia un colore. Sì. Quindi dopo la prima parte diciamo tutti assieme lavorando su questa si decide questa lavora su incastri, su degli incastri ritmici. Incastri che totalmente. Sì, sì, sì, piuttosto netto. In qualche modo. Sì. Se riusciamo ad arrivare a un silenzio all'unisono, credo che sarebbe bello. E poi ognuno si sceglie un percorso. E poi ognuno si sceglie un percorso. Magari fa questa prima seta di tappeto. E delle costruzioni ritmiche che stanno sopra. Sì. Ma c'è veramente? Sì, sì, sì. Cioè chi vuole? Sì, uno prende il blu. Sì, sì, sì. Però no, non lo decidiamo a priori? Cioè come, come ci viene al momento? Sì. Sì. Facciamo così? Sì. Per me non lo penso. Quindi partiamo alla destra. Sì, sì, sì. E poi liberi sulla trappa. Ok. Okay. Potrei essere, sì. Ma ok, vi basta? No, 3 minuti. Avete ancora 3 minuti? No, no, no, vabbè, sì. Abbiamo recuperato i 3 minuti di ritardo. L'abbiamo fatto per te. Siamo un maniacale. Lo vedete tutti? Sì. Sì. Anche io. Anche tu lo vedi. Beh, loro io non ho fatto il servizio militare, è ora di mettermi lì. Colonnello russo sarebbe stato contentissimo.